ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. L'edizione di quest'anno vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione, specialmente in un momento difficile come quello attuale, contrassegnato dalla diffusione del SARS-CoV-2. In linea con noi il professor Michele Gulizia, direttore della cardiologia dell'ospedale Garibaldi di Nesima Catania e presidente della Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Cardiologi e Ospedalieri. Professor Gulizia, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, buongiorno a tutti. Vorrei declinare con lei lo slogan di quest'anno: usa il cuore per... Dobbiamo mantenere sano il nostro cuore. Per farlo dovremmo ridurre o ancora meglio eliminare quelli che sono i fattori di rischio correlati al verificarsi degli eventi cardiovascolari. Ormai anche la vostra trasmissione è molto precisa su questi argomenti: l'ipertensione arteriosa va ridotta, gli alti livelli di colesterolo, quello cattivo, LDL, cercando di aumentare quello buono, l'HDL, gli alti livelli di trigliceridi, che come il colesterolo inficiano quello che è il normale scorrimento del sangue all'interno delle coronarie, il sovrappeso, l'obesità, la storia familiare ovviamente che non possiamo modificare, ma dobbiamo stare attenti se qualcuno dei nostri genitori o antecedenti abbia avuto un evento cardiovascolare prima dei 65 anni, il fumo di sigaretta, l'eccessivo consumo di alcolici e soprattutto il diabete. Se siamo diabetici, curiamolo, perché il diabete è una malattia cardiovascolare la cui diagnosi si fa mediante la puntura del dito, la glicemia. Non dimentichiamolo mai. Professor Gulizia, usa il cuore per imparare a conoscerlo meglio. Anche quando i sintomi sono presenti, spesso non vengono correttamente interpretati. E quindi quali sono le avvisaglie di un cuore che non funziona bene? Una debolezza ingravescente, cosiddetta astenia, che deve sempre allarmare, soprattutto quando si associa alla riduzione della diuresi, cioè la quantità delle urine che emettiamo soprattutto nella giornata, con un paradossale aumento durante la notte, quella che viene chiamata nitturia. Questa sintomatologia generalmente può associarsi a una difficoltà a respirare, quella che viene dichiarata dispnea, soprattutto la notte, che ci obbliga a stare più alti, quasi seduti, e quindi a dormire in una posizione con le spalle più alte, o addirittura possono comparire degli edemi alle caviglie, i cosiddetti edemi cardiaci, alcune volte alle gambe, o ancora quando si avverte il cardiopalmo, questa sensazione di cuore in gola, questa sensazione di cuore che corre, che ovviamente ci devono portare a pensare che il nostro cuore è più stanco, che fa più fatica a contrarsi, a pompare in circolo il sangue e che quindi arriva agli organi con difficoltà. Grazie professor Gulizia per essere stato con noi, buona giornata del cuore, buona giornata anche a voi. Per oggi è tutto, vi rimando come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. La nostra video intervista oggi è dedicata alla salute maschile. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.